Tanto è una stagione che ha dei nomi stellari, come dico io, e anche dei titoli importantissimi in un mix di classici e di contemporaneità che veramente ne fanno per noi una stagione unica, ce lo diciamo da soli, ma io penso fortemente che sia così. 14 titoli, grandissimi interpreti, da Haber, Alessio Boni, Maddalena Crippa, c'è veramente di tutto. In più ci sono tre appuntamenti a scelta per i nostri abbonati, e dove c'è anche, diciamo, il cabaret, dove c'è la musica, cioè, ritornano gli Oblivion, ritornano i Legnanesi, la grande stagione dei concerti. Mi piace annunciare anche il fatto che ci saranno le celebrazioni dei 200 anni del Duse, ma sui quali teniamo il più stretto riservo per fare poi la sorpresa a settembre. Sono tantissime le iniziative che noi facciamo per le scuole, per i giovani, scontistiche, visite al nostro teatro, possibilità di avere veramente delle facilitazioni per tutti i giovani, perché sono il nostro futuro.